versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, sono le 16.30 primi 8 secondi, siamo in diretta agli studi della radio di Milano e grazie come sempre per ascoltarci e scaricarci in podcast e la rituale segnalazione dell'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it per segnalarci temi di trasmissione o per proporre direttamente il vostro intervento su alcuni temi. La trasmissione di oggi infatti nasce esattamente da due segnalazioni che sono venute su temi molto diversi ma che sono in realtà complementari perché riguardano due diverse maniere analoghe di comportarsi male dello Stato nei confronti di due diverse categorie di coloro a cui deve dei soldi. La prima categoria è quella dei suoi fornitori, stiamo parlando in particolare dei suoi fornitori sanitari e vedremo perché, e l'altra categoria è quella dei contribuenti quando si tratta di liquidare le somme di detrazione fiscale a cui quei contribuenti hanno diritto. Come sempre lo Stato, e lo sapete se mi seguite, segue delle regole asimmetriche, cioè decide di volta in volta, misura per misura, le condizioni del proprio più diretto vantaggio. Naturalmente in questo noi non possiamo dire nulla, perché è lui che decide che cosa gli interessa nel suo interesse finanziario, sia stracciando contratti che ha sottoscritto, come vedremo nel primo caso, sia naturalmente scalando nel tempo i rimborsi fiscali come più fa comodo per le esigenze di cassa della propria finanza, mica per le esigenze di cassa e di sostenibilità del contribuente e della sua famiglia, come vedremo. Direte voi, è sempre gli stessi temi. Sì, però queste cose non cambiano mai e ve lo dico perché la prossima settimana, appuntiamocelo fin da adesso, il giovedì, il 15 di ottobre e siamo in attesa della legge di stabilità per il 2016. Vedremo che cosa ci riserverà. Naturalmente avrete capito dai giornali di questa settimana che le aspettative sono molte, le promesse del governo sono tante, faremo più deficit, vedremo di quanto, ma insomma dovrebbe essere il 2,2 più un altro 0,2% sugli immigrati, almeno il 2,4%. E però con la promessa di fare meno debito pubblico è tutto appeso a tanti numeri, ma questi li vedremo in altre puntate. Quello che mi interessa è segnalarvi questi due temi dello Stato che fa i fatti suoi nel rapporto con noi privati e naturalmente se avete su questo da dire la vostra, sia che siate un fornitore che è soggetto a clausole attraverso le quali lo Stato si dà facoltà di negare quanto era scritto nei contratti che aveva già sottoscritto nei vostri confronti, perché decide di pagare meno e di annullarli i contratti, come vedremo, sia soprattutto se siete alle prese con delle difficoltà in quanto a incasso dei crediti fiscali a cui avete diritto, ma i cui tempi di liquidazione da parte dello Stato sono molto molto molto lunghi. Eccezionalmente vi dico una cosa, che siccome abbiamo avuto esplosione di telefonate e messaggi da ieri a oggi in tutte le trasmissioni anche degli ascoltatori romani, se per caso volete ancora intervenire, noi già abbiamo fatto stamattina la trasmissione anche con Alessandro Milan, attenti a noi due, dedicata tutta a interviste su Roma, se per caso vi scappa ancora un'opinione su questo, io accetto oggi anche telefonate per quello che riguarda Roma. Allora, andiamo a capire innanzitutto il primo aspetto. Il primo aspetto è quello di una categoria di fornitori pubblici che già avevano i contratti sottoscritti con lo Stato e che si sono trovati ad agosto di fronte a una bella, anzi brutta, sorpresa. Sapete che da anni ci raccontano che i tagli lineari sono sbagliati, che erano quelli che faceva la destra con Tremonti, verissimo peraltro, e i governi successivi hanno sempre detto che avrebbero scelto invece con grande attenzione i tagli da fare. Sapete la fine che ha fatto la spending review di Cottarelli, è rimasta sul tavolo. Capiremo come sono fatti, a quanto ammontano i tagli di spesa nella prossima legge di stabilità. Di fatto però i tagli lineari sono allegramente continuati e anche in corso d'anno e anche di fronte a contratti già sottoscritti. E il caso di un decreto legge che il governo ha emanato lo scorso 19 giugno e che poi è stato convertito in Parlamento a fine agosto. E questo decreto, vi salto le premesse, vi leggo solo la frase, le due frasi centrali per capirci, per quello che ci interessa oggi, dispone testualmente che per l'acquisto di beni e servizi di cui la tabella eccetera legata al presente decreto, stiamo parlando di forniture sanitarie, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere, quindi contratti già sottoscritti, e questa rinegoziazione, prosegue la lettura del decreto, una rinegoziazione che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e o i volumi di acquisto rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere già detti, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere. Nel prosieguo del decreto si dice anche quanto segue. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, rispetto alla norma che dice si strappano i contratti e voi mi date un 5% in meno perché altrimenti io vi riduco i volumi, ma comunque vi riduco del 5%, come avete capito prima. Ecco, nell'ipotesi di questo mancato accordo con i fornitori, prosegue il decreto, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi, come individuati sopra, cioè con un taglio del 5%, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di recedere dal contratto in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile senza alcun onere a carico degli stessi. Lo Stato strappa il Codice Civile, strappa i contratti già sottoscritti e dice: caro mio, o il 5% in meno del valore o il 5% in meno del volume, ma sempre il 5% di taglio. Non ci stai? Te ne vai a quel paese perché non ti devo niente. Naturalmente il privato, che a quel punto ha già fatto, ha lavorato per adempiere la fornitura, si è programmato con tutti gli input e i costi intermedi della produzione, arriva allo Stato e dice: no, caro mio. Ecco, questa è la norma di cui stiamo parlando in questa prima parte della trasmissione. Lo Stato strappa i contratti e il codice civile. Allora, per farcela capire meglio, per farci capire soprattutto che cosa sta succedendo nel settore, e con noi il presidente della Federazione Italiana dei Fornitori Ospedalieri, Giovanni Carboni. Buon pomeriggio, presidente. Buongiorno, direttore. Buongiorno. L'ho spiegata bene la norma, è così? Perfettamente, è così, e direi che ha centrato il problema. Noi da sempre facciamo contratti con la pubblica amministrazione, i quali molto spesso sono disattesi. Lei citava inizialmente il discorso anche dei tempi di pagamento, cosa che il nostro Presidente del Consiglio aveva promesso, no? Doveva andare a piedi, non so bene in quale direzione. Si aveva una scommessa con Bruno Vespa. Esattamente. Per un santuario. Esattamente. Io qua davanti ho una tabella che era pubblicata sul 24 ore sanità del 15-21 settembre, in cui abbiamo uno scoperto i tempi di pagamento pubblicata da Asso Biomedica, che è la più grossa associazione nel settore, i quali arrivano fino praticamente a 633 giorni col Molise. Ecco, quindi ci sono alcune regioni virtuose, 84 giorni per esempio della Valle d'Aosta, che è la number one, fino appunto al Molise 633, passando per altre situazioni sempre che comunque vanno nella direzione di non ottemperare a quanto sarebbe scritto o quanto addirittura è stato detto. Però qui, prima del mancato pagamento, c'è proprio il fatto di strappare l'intesa con cui si era pattuito e aggiudicata la commessa. Noi ricusiamo questa richiesta in quanto c'è un'evidente contrarietà della norma nazionale con il diritto dell'Unione Europea, che impone per i contratti in essere con la pubblica amministrazione il divieto di rinegoziazione delle condizioni risultanti all'aggiudicazione. Ecco, quindi questo è un discorso che per noi non può essere recepito. Poi in subordine c'è il discorso, come lei giustamente, direttore, citava, il discorso che il servizio sanitario può proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari e o, come diceva giustamente lei, i volumi di acquisto. Quindi, per quanto, siccome loro ci chiedono essenzialmente la riduzione del prezzo, in quanto io le posso dire tranquillamente, perché faccio questo mestiere da più di 30 anni, che praticamente i volumi d'acquisto non sono mai, sono così puramente indicativi, ecco, però non sono mai precisi, per cui in realtà un discorso di rinegoziazione in termini di volumi viene sempre praticamente fatto, insomma, da sempre. Per cui anche questo discorso, quindi noi sui prezzi non ricusiamo tranquillamente quello che ci viene richiesto, insomma, ecco, quindi questo è un po' come lei giustamente ha un po' detto, quindi noi ricusiamo. Questo ovviamente è già la seconda o terza volta, perché già ai tempi di Cottarelli questa cosa veniva fatta e noi l'abbiamo sempre ricusata, poi ogni associato è libero di fare più o meno come crede, però le direttive dell'associazione della FIFO e le direttive di Assobiomedica, direi che sono le due principali associazioni nell'ambito delle forniture di dispositivi medici, sono un po' in questa direzione. Allora, io intanto le giro alcune osservazioni dei nostri ascoltatori che stanno arrivando sugli sms col 349-238-6666. Allora, Rodolfo, un altro ascoltatore, dice: beh, insomma, non esageriamo, non vedo un grande scandalo. Anche i privati, soprattutto i grandi gruppi, nei confronti dei piccoli fornitori, lo fanno regolarmente. Però Rodolfo, che ci sia la ricontrattazione del prezzo tra i fornitori, questa è osservazione mia, poi facciamo rispondere il Presidente, questo ci può stare. Naturalmente nessun privato può dire e ti sospendo il codice e mi sospendo dal codice civile, e quindi se mi fai causa per decreto legge ti dico che tu non porti a casa nessun risarcimento. Quindi da questo punto di vista lo Stato ha una forza coercitiva di cui abbiamo letto il dispositivo. Primo, ma comunque girò questa osservazione perché ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa del ritardo di pagamenti tra privati. Abbiamo visto un'iniziativa, quella di Assolombarda, per darsi un codice rispettato davvero anche tra privati. Poi un altro ascoltatore ci chiede: ma come, dopo anni in cui i media e i politici ci hanno ossessionato con l'idea che la sanità consisteva l'intervento nel fatto riguardare i costi standard anche di acquisizione delle forniture, il prezzo della siringa X nell'altra regione, il prezzo della siringa Y nell'altra regione, siamo ancora solo ai tagli lineari in corso d'anno? Ecco, quindi anche su questo le chiedo un'opinione. Che risponde ai nostri ascoltatori? Allora, per quanto riguarda il discorso che lei diceva, direttore, noi chiaramente dobbiamo assolutamente subire quelle che sono un po' le forzature, chiamiamole così, dello Stato, in quanto soprattutto i fornitori di dispositivi medici sono costretti a veicolare le loro forniture solo nell'ambiente, diciamo, statale tra virgolette, o anche un po' le case di cura, ma nessuno si comprerebbe mai uno stent coronarico o una valvola cardiaca per tenersela in casa, per cui il nostro canale di vendita è esclusivamente sono gli ospedali, per cui lo Stato questo lo sa benissimo e quindi un po' nei nostri confronti ha una posizione dominante, c'è un monopsonio, diciamo. Cioè, in termini tecnici è un monopsonio, sì. Assolutamente sì, insomma, ecco, assolutamente sì. Per quanto riguarda il discorso delle varie diversità di prezzo, insomma, qua bisogna poi che ci mettiamo d'accordo. O viene fatta una gara unica a livello nazionale, e che sarebbe un disastro totale per tutta una serie di motivi che non abbiamo forse senz'altro il tempo di dibattere in questa sede, ma dal momento che ci sono tantissime gare o regionali o pluriregionali o aree vaste, direi che c'è sempre una diversità di prezzi. Io seguo tutte le problematiche scandalistiche della famosa siringa d'oro, eccetera, eccetera, eccetera, che lei, vabbè, a Porta a Porta, poi direi che è un trionfo un po' di queste cose, ma in tantissime altre trasmissioni questo succede. In realtà poi se andiamo a leggere i dati, io ero al Ministero pochi giorni fa e diceva che effettivamente diciamo certe caratteristiche di una siringa erano diverse da altre siringhe, per cui in realtà il discorso va un attimo ridimensionato. È vero che ci sono delle diversità, è vero comunque che ci sono delle modalità di acquisto che sono completamente diverse da regione a regione, per quantità, per tempi di pagamento, e quindi, e poi c'è il discorso che io dico sempre, difficile molto forse da capire: chi vive di forniture ospedaliere deve comunque smarcarsi, nel senso di fare un prezzo che non sia praticamente, che sia sempre una sorpresa tre volte per cercare di vincere la gara. Il nostro sfogo di vendita va soltanto nella direzione, come dicevo prima, dell'ospedale. Ah, no, certo. Però una volta che uno fa il prezzo, diciamo, attraverso cui si aggiudica la commessa, e poi si trova il decreto che dice: no, bello mio, comunque te lo abbasso ulteriormente, non è proprio un bell'andare. Per così assolutamente no, questa è una cosa appunto che, come dicevo prima, noi ricusiamo, anche perché... Però la domanda che le devo fare è, nel mentre voi lo ricusate, cioè preparate le impugnative, siccome qua i termini previsti dal decreto sono brevissimi, sono di 30 giorni, e nel frattempo comunque siete sottoposti al taglio, o no? No, assolutamente no, noi continuiamo in questa fase noi stiamo continuando a fornire ai prezzi pattuiti, diciamo, con nelle gare. Teniamo presente, direttore, per precisazione, che i prezzi di cui parliamo e i prezzi di cui anche il signor Rodolfo a lei aveva mandato un SMS sono prezzi di aggiudicazione di gara regolarmente aggiudicate. Ah, certo. Tramite un discorso di qualità-prezzo, e quindi che hanno avuto uno screening qualitativo, diciamo quantitativo dal punto di vista del prezzo, che si è già risolto dopo alcuni mesi di trattativa. Insomma, ecco, diciamo. Complessivamente l'ammontare di questa riduzione lineare comporta per lo Stato un risparmio stimato in quanto? Beh, tenga presente che il mercato dei dispositivi medici che, di cui lo Stato si approvvigiona è intorno ai 7 miliardi, ecco, parliamo di 7 miliardi. Quindi sono 350 milioni, insomma. 150, che a un certo esatto. punto, che a un certo punto il mercato del dispositivo medico è quella fetta di mercato che lo Stato vorrebbe ridurre al 4,4% percentualmente rispetto al costo della sanità in totale. Il costo della sanità balla tra i 110 e i 120 miliardi l'anno. Sì, sì. Ecco, quindi il discorso del dispositivo medico vorrebbero convogliarlo intorno al 4,4%. Noi siamo già ai più bassi d'Europa. Quindi vi aspetta un avvenire di ulteriori tagli. È inutile, insomma, è inutile che nascondersi dietro un dito, per così dire. Allora, intanto io ringrazio il presidente Carboni per averci spiegato come lo Stato si comporta nei suoi confronti. Torniamo tra un minuto con le vostre telefonate, e poi abbiamo una testimonianza di un lettore su come lo Stato invece si confronta, di un ascoltatore, scusatemi, di come lo Stato si confronta con lui quando si tratta di rimborsarlo dei crediti fiscali a cui ha pienamente diritto. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi 34 secondi. Abbiamo sentito il presidente dei fornitori ospedalieri. Decreto 5% in meno. Track e lo Stato strappa i contratti e sospende il codice civile. Questo a proprio vantaggio. Adesso, prima di farvi ascoltare il nostro ascoltatore, che è un lavoratore dipendente, rapidamente le telefonate che sono in attesa. Cominciamo con Bruno da Brescia. Bruno, mi sembra che tu però voglia parlare di Roma. Bruno, prego. Buonasera, buonasera. Sì, infatti, alla sua centralista, redattrice, avevo lasciato commento sarcastico di Marino è fantastico. Marino è fantastico, dice lei. Sì, fantastico, perché è una cosa, è di una sfacciataggine assoluta. Ora, per chi ha seguito un po' la storia di questo paese, soprattutto politica, per cose di uguali dimensioni hanno chiesto l'azzeramento di tutto il Consiglio Comunale. Sono state arrestate persone, sono stati sconquassati comuni interi e piccoli. Quando si trattava dell'utilizzo delle somme devolute ai gruppi consiliari che venivano utilizzate a scopi personali, come succede esattamente con gli scontrini dei pranzi e delle cene contestati a Marino e poi smentiti da quelli che ufficialmente venivano dichiarati. Ha perfettamente ragione. Se sono stati smantellati interi consigli, a maggior ragione se fossero di centrodestra, perché bastava guardare la storia. Allora dico, con questo, quello che è successo a Roma, con i precedenti, cioè con com'è possibile che anche la stampa e certo giornalismo che impera in televisione non ci sia una presa di posizione così tanto netta quanto si sarebbe dovuta prendere se al governo ci fosse stato qualcun altro? Io non oso immaginare. No, lei dice c'è una simmetria rispetto al colore politico, per così dire. E io penso che i molti atteggiamenti diffusi oggi, le direi, vabbè, ma queste sono minuzie, queste cose delle sette, sono da commisurare anche alla gravità dei reati, delle malversazioni, delle tangenti di cui proprio a Roma negli anni Giunta Alemanno e ancora in seguito i magistrati della Procura di Roma con l'inchiesta Mafia Capitale ci hanno fatto capire che ci sono, e quindi tutti tendono a relativizzare dicendo queste sono poi ragazzate. Di fatto ha ragione lei, però, almeno secondo me, per quello che posso dire io, ha ragione. Siamo un po' asimmetrici, per così dire, non è solo asimmetrico lo Stato, siamo asimmetrici anche nel giudicare la gravità dell'utilizzo del denaro pubblico da parte di un sindaco in questo caso. Franco da Udine invece, Franco, prego. Sì, no, Giannino, buonasera. Buonasera. Io sento parlare lei, a parte che l'ascolto ogni giorno, dalle 24, ma sento sempre parlare delle cose che non vanno, non vanno. Ma qualcuno, ma ce lo dice cosa bisogna fare per risolvere il problema dello Stato che non paga, che le tasse, che equità? Franco, la mia risposta è che bisognerebbe organizzarsi tra soggetti che hanno problemi analoghi e tentare sistematicamente di adire il giudice. Nella maggior parte dei casi il giudice non consentirebbe azioni, ma talvolta anche sì. Le faccio un esempio della cronaca di oggi. Oggi la Regione Veneto si costituisce parte civile nel processo relativo alle tangenti del Mose a Venezia, quindi Galan e così via. Il mio commento è stato: ma che ordinamento è un ordinamento che consente alle amministrazioni di costituirsi parte civile e di chiedere di essere risarcite rispetto a reati commessi da chi le amministrava in precedenza, e non lo consente ai cittadini? Loro dovrebbero costituirsi parte civile e avere diritto a un rimborso dei danni, loro che le pagano le istituzioni. Finché noi abbiamo un ordinamento che consente solo alle istituzioni di costituirsi parte civile e di avere dei danni e non ai cittadini che le pagano, vuol dire che nel nostro ordinamento queste istituzioni valgono più dei cittadini. Cari sudditi, queste sono le leggi vigenti, come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione. Allora sentiamo la testimonianza invece di questo lavoratore dipendente, il nostro ascoltatore Andrea è un lavoratore dipendente di Parma, e in relazione al fatto che sulle sue detrazioni fiscali come lo Stato si comporta nel suo caso. Andrea, buon pomeriggio, che lavoro fai? Buonasera, Oscar. Sono un impiegato tecnico in uno studio tecnico, un geometra. Sei un geometra. E le cose vanno bene nello studio o avete avuto guai nella crisi? Insomma, dai, l'edilizia sai com'è. Ecco, l'edilizia, quindi lo sapevo, immaginavo che... Allora, tu hai scritto: io ho diritto da 7.30 al 2015 a circa 2.800 euro di rimborso tra spese mediche e bonus di ristrutturazione, è così? Perfetto, esatto. L'anno scorso ho ristrutturato, ho fatto tutto quanto previsto dalla normativa, bonus, si bonifico tracciato, eccetera, eccetera. E quindi è risultato questo mio rimborso da 7.30, se non che la capacità di restituzione dello studio per cui lavoro è limitata per legge solo al quantitativo contributivo che il datore di lavoro versa complessivamente, e essendo uno studio piccolo i contributi che vengono versati non coprono quanto lo Stato mi deve. Già. E la cosa più sciocca è che questo rimborso termina al 31-12, e a 31-12 mi sarà riconosciuto nel CUD quanto, diciamo, mi rimane, ma non potrà essere restituito a seguire gennaio, febbraio, marzo, perché si interrompe il 31-12 dell'anno corrente, e quindi questo credito mi sarà riconosciuto a luglio dell'anno prossimo, che si cumulerà con l'altro e via, via, via, via. Però tu ci rimetti 2.000 euro. Ci rimetto augurandomi buona salute e tutto, arriverà il giorno che li vedrai tra un bel po' di anni. Il problema è che se rimanessi questa condizione anno per anno avverrebbe tutti gli anni, quindi diventerebbe non sarebbe una grande consolazione. No, dire, assolutamente, perché comunque io nel mio piccolo bilancino di intervento avevo tenuto conto di queste somme per far fronte ad altre cose, a questa situazione. Allora, cari ascoltatori, grazie ad Andrea che ci segnala, questo è un problema che grava su tantissimi lavoratori dipendenti. Che senso ha che lo Stato, nel riconoscerci dei diritti di credito a seguito delle detrazioni e deduzioni presenti nell'ordinamento, non ce le paghi in quanto lavoratore dipendente, io sono un autonomo, perché devono essere commisurati ai contributi versati. Cioè lo Stato dice: se la somma eccede quello che io già prendo per il tuo lavoro, non te lo do, se ne parla per anni. Ma è così che sosteniamo l'adempimento del diritto previsto nel nostro ordinamento a sostegno dei lavoratori dipendenti, in questo caso quindi per esigenze di famiglia, di salute e così via. Questa cosa è un'abnormità, perché antepone l'interesse di cassa dello Stato all'attuazione dei diritti che lo Stato stesso ha nel suo ordinamento per i lavoratori dipendenti, le loro famiglie, la loro salute. Che senso ha accettare leggi così? Sono completamente, ancora una volta, asimmetriche. Non alzo più la voce, ma prima di morire qualcuna di queste cose le vorrei insieme a voi vedere cambiate. Allora, appuntamento intanto domani dalle 10 alle 12 in diretta con me, Carlo Alberto Canavale, Maffè, Mario Seminario, Renato Cifarello, ai conti della Belva, mi raccomando.